известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Il Presidente degli United States ieri ha fatto una performance interessante, di grande interesse, in diretta televisiva. L'America lo ha guardato, osservato, analizzato, vivisezionato in un momento così particolare, dopo la settimana delle infinite polemiche, della rabbia, no, manifestata forse con un colpevole ritardo, come molti lo hanno rimproverato di aver fatto, riguardo alla storia dei bonus ai manager AIG. E Obama ha dato molte risposte, ha fatto poco meno di un'ora di incontro stampa, preceduto da circa 7 minuti di discorso, di introduzione. Poi si è concesso ai reporter, anche lui, sull'esempio di Jefferson, un programma che ormai cita a ogni piede sospinto, ha lavorato a 360 gradi, insomma ha parlato del quadrante interno, no, domestico americano, ma poi ha tirato in ballo anche le aree di crisi su cui gli Stati Uniti sono più impegnati, Medio Oriente, ma soprattutto Messico, e oggi noi sull'argomento abbiamo un interessante approfondimento, e poi Israele, su cui oggi noi abbiamo un interessante approfondimento. Ma andiamo con ordine e ascoltiamo invece l'apertura di Barack Obama. Qual è stato il tono che ha voluto dare all'incontro con la stampa e soprattutto all'incontro in diretta con gli americani? Good evening. Before I take questions from, ha detto, prima di rispondere alle domande dei giornalisti, voglio darvi lo stato delle cose, delle mosse che stiamo prendendo per trasformare la recessione economica in recupero e poi successivamente in prosperità. È importante ricordare che questa crisi non è arrivata di colpo, non è il risultato di un'azione sbagliata, ci sono voluti molti anni, molti fallimenti per condurci qua, e ci vorranno molti mesi e molte soluzioni per uscirne. Non ci sono riparazioni immediate, non ci sono bacchette magiche. Quella che abbiamo messo insieme è una strategia complessa, pensata per attaccare la crisi su tutto il fronte, su tutti i fronti, una strategia per creare lavori, per aiutare i proprietari di case, per restituire credibilità al prestito e per far crescere la nostra economia sul lungo termine. E quello che voglio dire è che cominciamo a vedere promettenti segni di progresso. Questa l'attacco al suo discorso. Lui a più riprese successivamente ha utilizzato una formula interessante che sembra quello che abbiamo appena detto, una formula. Lui ha parlato di una filosofia della persistenza. Questa espressione comincia a ricorrere nei punti di vista di Barack Obama, tanto da essere da poter essere considerata come forse un parto, no, del team, come vogliamo definirci in questo momento. Noi siamo quelli della filosofia della persistenza, ovvero della insistere con logica, coerenza, credibilità, competenza in strategie che abbiamo messo assieme noi, team di esperti. Su questo sta lavorando Obama, di questo ha voluto ripetutamente dar segno, anche poi concedendo però al suo tono più amato e forse a questo punto anche un po' più datato della sua retorica, della sua oratoria, uno spazio più limitato, ma poi alla fine ha chiuso sui toni, no, della famosa ormai proverbiale speranza. We'll recover from this recession, but it will take time. Recupereremo da questa recessione, ma ci vorrà tempo, ci vorrà pazienza e ci vorrà la comprensione di tutti che dobbiamo lavorare insieme, perché noi dobbiamo guardare prima di tutto al più grande set degli interessi complessivi, che è quelli del singolo. È così che si va incontro alla prosperità, cercando l'interesse generale prima che naturalmente l'interesse interesse dell'individuo, è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Se guardiamo al futuro con un rinnovato senso di propositi comuni, no? Di comunanza di intenti, come diciamo noi, di una determinazione che si rinnova e soprattutto di una confidenza, di una fiducia ritrovata, potete star certi che giorni migliori arriveranno. A questo punto è cominciato il fuoco di fila delle domande dei reporter, devo dire tutti piuttosto cauti. Tra l'altro Obama ha proceduto a delle scelte, chi per lui ha proceduto a delle scelte, il suo ufficio stampa, i suoi strateghi, privilegiando non i grandi quotidiani, dispetto contro dispetto. I grandi quotidiani negli ultimi giorni non sono stati generosi con Obama, Obama non è stato generoso con i grandi quotidiani e quindi li ha tenuti a sedere e non ha preso le loro domande. Invece ha preso domande di vario indirizzo, di varie fonti. Ha parlato un rappresentante di una oscura testata per veterani, poi agenzie, anche agenzie internazionali, alcuni giornali, molte televisioni. E alla fine l'ultima domanda era una delle domande più importanti, fino a quel momento non era stata pronunciata, se l'è mantenuta come passo di addio di questa conferenza stampa. È stata formulata da Stephen Collinson della AFP e riguarda Israele, naturalmente. E la domanda è quanto sono realistiche le speranze di un primo ministro israeliano che non ha sottoscritto la soluzione dei due stati e di un ministro degli esteri accusato di insultare gli arabi. Quanto sono promettenti delle presenze di questo genere alla testa del nascente governo israeliano? Insomma, la sostanza della domanda era: Presidente Obama, cosa ne pensa del governo che tra Gerusalemme e Tel Aviv stanno mettendo in piedi? Mr. President, you came to office pledging to work for peace between Israel and the Palestinians. How realistic do you think those hopes are now, given the likelihood of a prime minister who is not fully signed up to a two-state solution and a foreign minister who has been accused of insulting Arabs? Ecco la domanda e la risposta di Obama non è certo più facile di come era prima, anzi è probabilmente più difficile, ma comunque siamo a un passo necessario. Noi non sappiamo esattamente ancora come sarà fatto il nuovo governo israeliano, noi non sappiamo ancora esattamente la leadership palestinese in che cosa consisterà, ma c'è qualcosa che sappiamo perfettamente, e questo qualcosa è che lo status quo, la situazione attuale, secondo noi, dal punto di vista americano, è inaccettabile. E questo per quello che riguarda Barack Obama. Adesso però di Israele vogliamo continuare a parlare, facendo un passo diverso e chiamando in causa la nostra consueta interlocutrice per quello che riguarda l'argomento Israele contemporaneo, scenario politico, formazione del governo, ovvero Maria Grazia Enardu, ricercatrice di storia internazionale all'Università di Firenze, insegna storia di Israele moderno. L'abbiamo sentita anche ieri, oggi siamo ancora più vicini, perché sembrerebbe proprio sul punto di presentare il suo governo, anche perché stanno scadendo i termini e parliamo di Netanyahu, ma sentiamo se ci siamo a tutti gli effetti, se è ormai questione di ore, come le agenzie recitavano fino a poco fa. Maria Grazia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, è così, siamo sul passo della presentazione. Netanyahu ha formato il governo ed è pronto a ufficializzarlo? Ha detto che tra uno o due giorni presenterà il governo, e una notizia di pochissimo fa su un giornale israeliano fa pensare che il Likud abbia concluso un accordo anche con un piccolo partito di estrema destra con componente religiosa. Sono solo 3 seggi e quindi si arriverebbe teoricamente a 69, ma questi 3 seggi potrebbero essere preziosissimi in caso di ribellione di alcuni membri dei laburisti non contenti dell'accordo, anche se questo piccolo partito di estrema destra aggiunge ulteriori elementi di contraddizione a questa coalizione. Quindi una mossa, una copertura preventiva, diciamo così. Tra l'altro ieri anche in televisione abbiamo assistito a scene, devo dire, piuttosto impressionanti tra la commozione e la rabbia, no? tra i laburisti palestinesi, un partito che sembra spaccato in due anche in termini generazionali, è così? Senz'altro è così, e senz'altro non si sa cosa faranno i 7 deputati ribelli, che poi sono la maggioranza del gruppo laburista, che è solo di 13 deputati. Due signore hanno detto che non voteranno, forse si asterranno, forse usciranno dall'aula. Quindi quando si andrà al voto della Knesset ci sarà veramente un'incertezza per quanto riguarda non solo la tenuta della coalizione, ma anche vedere chi si dichiarerà veramente fuori e in che modo. Certo. I laburisti potrebbero anche spaccarsi. Oh, abbiamo parlato di Obama, della conferenza stampa, il briefing teletrasmesso del Presidente degli Stati Uniti, della sua risposta conclusiva che è stata per l'appunto dedicata a Israele, della inquietudine americana nei confronti dello scenario israeliano, un'inquietudine su cui come dire, butta, no, benzina sul fuoco questa notizia ormai ricorrente, sempre più ripresa e arricchita di particolari, che riguarda la questione dell'Iran e del raggiungimento, se non del superamento, di una soglia tecnologica per produrre la bomba atomica, notizia che proprio da Gerusalemme parte, no? prende origine, secondo i servizi di informazione militari israeliani. Pare che ci sia una relazione alla Commissione Affari Esteri, anche lì una grande inquietudine, una gran voglia di muoversi. Ecco, ti voglio chiedere, ma c'è veramente la possibilità di un'intenzione di questo genere, magari in chiave unilaterale, ma come può pensare magari a governo formato di avviare strategie di questo genere? È qualcosa che va approfondito, analizzato, o siamo per ora soltanto all'abbaiare dei cani? Io credo che sia uno strumento di pressione sugli americani per tutta una serie di temi che vanno dall'atteggiamento americano verso l'Iran a un sostegno a Israele, compreso questo governo. È chiaro che per circa un anno, fino alle elezioni palestinesi, tutto sarà paralizzato sul processo di pace, come lo chiama Netanyahu, che non vuole prendere impegni su due stati. Però nel frattempo, dalle prime mosse di questo governo, e soprattutto se continuerà nella politica degli insediamenti, da questo gli americani trarranno una serie di chiare conclusioni. Va bene, grazie a Maria Grazia Nardo. Torniamo a parlarne non appena appunto questo governo, ormai vicinissimo alla sua formazione, ma ancora piuttosto misterioso nella sua composizione, avrà definitivamente preso forma. Step of the way, we walk the line. Your days are numbered, so are mine. Time is piling up, we struggle and we scrape. All boxed in, nowhere to escape. City's just a jungle, more games to play. We're trapped in the heart of it, trying to get away. I was raised in the country, been working in the town, been in trouble since I set my suitcase down. Ain't got nothing for you, had nothing before. Don't even have anything for myself anymore. Sky's full of fire, the pain is pouring down. There's nothing you can sell me, I'll see you around. My powers of expression and thoughts so sublime, they'll never do you justice in reason or rhyme. E a margine delle notizie da Israele va data anche pubblicità alla denuncia effettuata dall'organizzazione per i diritti umani che si chiama Human Rights Watch, HRW, che avrebbe unito la sua voce, un'agenzia di 5 minuti fa, alle accuse nei confronti dell'esercito israeliano per la forza impiegata contro i civili palestinesi durante la recente offensiva che portava il nome di Piombo Fuso, e la denuncia parla di fosforo bianco. A Gaza i militari israeliani non solo hanno usato il fosforo bianco come schermo protettivo in aree aperte, ma lo hanno fatto ripetutamente in aree densamente popolate, anche quando le loro truppe non erano presenti. Questo recita il virgolettato di HRW, di Human Rights Watch. Il risultato, sempre secondo questo rapporto, è stato che diversi civili avrebbero sofferto senza ragione o sarebbero morti a causa del fosforo bianco. C'è già una reazione di Tzal, dell'esercito israeliano, che il cui comando prova comunque a ridimensionare le cose, accetta l'ipotesi di eventuali episodi singoli, così recita l'agenzia, che comunque richiedono, questo viene dichiarato, una inchiesta approfondita. È curiosa questa coda, no, di cui abbiamo già discusso anche con Maria Grazia Nardu, come dire, di elaborazione del gesto, i soldati che pubblicano articoli sui giornali offrendo la propria versione dei fatti, e il desiderio di vedere chiaro fino in fondo anche a ciò che si è compiuto, notizie che arrivano da diverse fonti in questa direzione, da Gerusalemme. Ma in Express Yourself noi siamo voluti tornare, restare su Obama e sulla sua, come dire, presenza, sulla sua, sul suo carisma o non carisma, sull'impressione che può aver fatto in questa apparizione televisiva molto discussa, un po' troppo professorale è il giudizio dei grandi giornali americani, ma comunque competente e ben gestita, gli danno un 6,5 a occhio. Ma noi vi chiediamo, gli americani hanno dunque un nuovo presidente che parla nei toni di cui abbiamo riferito poco fa. Fosse il vostro di presidente a parlare in questi toni, che sentimenti vi provocherebbe? E allora, premesso che la spartizione dei messaggi di Facebook è del tutto casuale tra me e te, Stefano, io devo dire che ho una schiera lunghissima di messaggi trionfali per Obama. C'è, per esempio, dal che deduco che io ho una schiera quando di messaggi, tu hai qualcuno un po' più critico, esatto, perché Alessandro per esempio dice: ci metterei la firma per avere un presidente così, e piazza lì una quindicina di con l'accento. Mm-hmm. Poi c'è Faber che dice: penso che sarà molto difficile per il suo successore, quindi guarda oltre, Faber, stare al passo. Obama è fruibile per tutti, è touchable. E poi c'è Roberto che dice: ecco un bel payoff, un bello slogan, unlock your potential, sblocca il tuo potenziale, un leader deve ispirare, libera, sì, la potenza, esatto, boom. Un bello slogan di qualche pubblicità di tempo fa. Mukeba, dice il nostro affezionato Mukeba, da formica quale sono, anche da prima della crisi, l'unico pensiero che mi viene è finalmente. Massimo dice: apre la bocca e gli dà fiato, oppure come direbbe Mina, parole, parole, parole. Eccoli, ma infatti critici. Quando arrivano? Giulio evoca Arthur Miller, citazione nobile, scrisse: i presidenti americani e l'arte di recitare, ed è quello che fanno tutti e che sta facendo Obama per comunicare meglio. Quindi Flavio, un bel cambio di mentalità per l'americano medio, ma forse molti se ne stavano già rendendo conto. Allora Marco, parole che responsabilizzano ogni singolo individuo, finalmente la riscossa del buonsenso. Poi c'è Germana, sarei orgogliosa di avere un presidente così, che chiama le cose col loro nome, dice speculazione se è speculazione, parla semplice e non per questo è banale o semplicistico. E chiudo con Andrea che dice: risparmia e investi, ma gli economisti ci hanno raccontato per anni che questo modo di pensare da vecchio contadino finisce per limitare lo sviluppo di un'economia moderna. Bravo Barack, sta dimostrando di avere idee. In molti hanno ragionato su questo risparmia e investi. Per la precisione, ha detto Obama che bisogna passare dall'epoca attuale del prendi in prestito e spendi, cose che poi insomma anche da parte nostra e nell'area nostra risuonano, al prestito. presto, risparmia e investi. Francesco scrive: risparmia e investi, un 20% in più almeno. Andrea dice: bravo predicatore, ma vediamo i fatti. Elisabetta scrive: tutte parole, o meglio concetti, con cui concordo, e credo che il modus vivendi americano che Barack Obama in questo discorso critica in effetti stia diventando molto italiano. Massimiliano dice: non ho nessuna reazione in particolare, essendo questi sentimenti ben radicati in Italia. Carlo dice: a me evocherebbe un senso di paura. I toni sono molto ispirati, concetti non solo giusti ma sacrosanti. Beh, non sono terribili. C'è una... No, qualche critico, ma tutto sommato positivi. Alex: meglio del nostro, che con il berretto da ferrovia. Sul berretto da ferrovia, ragazzi, è lì che vorremmo stare, ma insomma non è il nostro specifico. Paolo: un presidente che con il nostro berretto da ferroviere ci dice di lavorare di più. Paolo dice: un presidente da messaggi realismo, un presidente sempre vicino alla gente. Qualcosa ancora? Beh, c'è una domanda epocale di Adlai che dice: come è stato possibile che una figura di presidente così carismatico, senza essere rivoluzionario, possa essere arrivato al centro del sistema di potere americano, visto che la crisi è figlia dei valori che quel sistema di potere ha poi propagandato? I was sitting in a crummy movie with my hands on my chin. Oh, the violence that occurs seemed like we never win. Love and mercy, that's what you need tonight. So love and mercy to you and your friends tonight. I was sitting attraverso i messaggi SMS, il gradimento di Obama e della rappresentazione che ha messo in scena ieri alla Casa Bianca scende decisamente, in parecchi si innervosiscono e ne danno segno scrivendo a Jefferson. Roby da Vercelli dice: se lo dice Berlusconi di investire è ridicolo, se lo dice Obama invece è un grande statista. Gli italiani non riescono a essere imparziali, evidentemente non condivide alcuni segni di apprezzamento lanciati sulla pagina di Facebook dove abbiamo chiesto il vostro parere. Anche il nostro amico Simo la pensa allo stesso modo, dice: scusate, spesa pubblica senza precedenti, costo del denaro pari quasi allo zero, sarebbero modi per incentivare il risparmio, si chiede, e come? La gente risponde a incentivi economici, non ai bei discorsi. E il fatto è che Obama le due cose le tende a connetterle e dà una importanza particolare, forse molto americana, forse troppo americana, questo non lo so, io credo non troppo americana, all'aria che tira, all'atmosfera nazionale, alla voglia di essere parte di un progetto comune, eccetera, eccetera, eccetera. Lì questo argomento ha una valenza diversa che magari che dalle parti nostre. Poi, come dicevamo, c'è stato un argomento che ha occupato molto spazio, in uno spazio inconsueto, nonostante si tratti di un vicino di casa, nel discorso, nella conferenza stampa di Obama ieri, e questo è il Messico, che da buon vicino, nonostante trascorsi insomma piuttosto turbolenti, si sta trasformando in grandissimo problema per l'America di Obama. Ci sono una serie di emergenze crescenti, sempre più più gravi, scottanti, che arrivano o che circolano, no, nell'area di confine Messico-Stati Uniti. Ieri Obama ne ha parlato chiaramente, ma talmente chiaramente che oggi Hillary Clinton è in Messico per incontrare il presidente, cominciare ad agire di concerto riguardo a queste emergenze. Non a caso oggi gli è stato offerto, come dire, in sacrificio un narcotrafficante di primo piano che è stato appena arrestato, no, per dare segno di buona condotta. Quali sono queste emergenze? Crisi economica locale messicana, indotta naturalmente da quella americana, la questione del narcotraffico a cui è connesso un poderoso mercato di armi in rientro, cioè dagli Stati Uniti verso il Messico, e poi la gigantesca faccenda della immigrazione clandestina, di cui tante volte ne abbiamo abbiamo chiamato in causa per aiutarci oggi Andrea Margelletti, il presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali, esperto di questa area che oggi va denominata di crisi. Buon pomeriggio Margelletti. Buon pomeriggio a voi e grazie per l'ospitalità. Dunque è una questione veramente, come dire, piena di molteplici aspetti, e ciascun aspetto ha un andamento tutt'altro che incoraggiante in questo momento, quello dei rapporti tra Messico e Stati Uniti, al punto che lo stesso Obama preannuncia una visita vicina in aprile. Proviamo a vedere quali sono le possibili vie di fuga, vie di soluzioni per questo scenario. Allora, innanzitutto occorre dire che tradizionalmente noi immaginiamo gli scenari di crisi o i teatri di guerra, quelli lontani, l'Afghanistan, l'Iraq, insomma, quello che sostanzialmente quotidianamente i media italiani, ma i media europei ci mostrano. In realtà, infatti, c'è un paese che è un paese importantissimo come il Messico che rischia di implodere. Con un governo che rischia di cadere nel caos, diciamo rischia, che ovviamente ci auguriamo che questo non avvenga, dove l'anno scorso sono morte oltre 6.000 persone, certo, quindi certo. Parliamo ovviamente non per disastri naturali, ma per sparatorie legate alle gangs e al traffico, ai cartelli del... Numeri di una vera e propria guerra. Stiamo parlando della guerra, addirittura con... esponenti delle forze speciali dei commandos, testa di cuoio, forze speciali messicane che passano dall'altra parte perché magari vengono pagate 10-12 volte tanto, certo. E vanno a diventare il braccio armato di un cartello. Allora, pochi sanno che ad esempio il cattivone numero uno al mondo per gli Stati Uniti dopo Osama Bin Laden è in realtà un esponente di un cartello della droga messicana, e pochi sanno che, immagino proprio notizie proprio di queste ore, gli americani stanno cercando di aumentare in maniera sensibile la sicurezza al loro confine con una serie di esponenti di operatori della sicurezza dei vari dipartimenti, Homeland Security, la DEA, che è l'antidroga, la Drug Enforcement Administration e altre agenzie, perché il confine tra gli Stati Uniti e il Messico è diventato un confine a dir poco bollente, e non è quindi un caso che il segretario di Stato Hillary Rodham Clinton e ovviamente il presidente Obama guardino al giardino di casa con una seria, serissima preoccupazione. Ma non è un po' uno scenario, come dire, un po' troppo, schematico, visto così, una nuova amministrazione americana che sembra fare quello che quella prima non ha fatto, e ci chiediamo perché quella prima non l'ha fatto. Non credo che Bush avesse particolare simpatia per il narcotraffico del Messico. Un Messico dove uno Stato diventa completamente impotente davanti ai trafficanti, cattivoni che attraversano impunemente questo confine senza forze. Non è un po' troppo, come dire, cinematografica questa visione che riceviamo qua dagli Stati Uniti? Vorrei che lei avesse ragione, però in realtà spesso le cose sono ancora più gravi di quello che sembra. Cioè alcuni avvenimenti addirittura nascono ed esplodono per disattenzione. Allora, immaginare funziona molto bene nei film, certo, gli americani, certo, sono una potenza globale, la CIA, certo, guarda ovunque e sa tutto, so, questo lo lasciamo ai film che ci divertono e ci piacciono proprio perché sono dei film. Certo. Nella realtà dei fatti, le intelligence guardano dove il governo gli dice di guardare, quindi dedicano le risorse a quello. Certo, certo, certo. Quindi tutte le risorse, o la stragrande maggioranza delle risorse informative degli Stati Uniti nell'amministrazione Bush sono state dedicate a scenari molto lontani. Diversi, certo, certo. E quindi naturalmente poi peraltro in un paese come gli Stati Uniti che vive tra l'arme arancio, giallo, verde, rosso e blu, certo, certo, è ovvio che era anche politicamente più pagante focalizzare l'attenzione in contesti come quello iracheno e afghano, certo, piuttosto che guardare. Sicuramente adesso l'attenzione, perlomeno per quanto attiene all'Iraq, è scemata, certo, si sta focalizzando, è certo, un fenomeno che era stato sicuramente trascurato, perché insomma quello che sta succedendo in Messico è la risultanza di anni, certo, non di 15 giorni di sparatorie, no? Certo. Però adesso probabilmente l'attenzione dell'amministrazione è arrivata perché il livello di guardia è stato probabilmente superato. Maginetti, perlomeno questa è la mia sensazione, naturalmente, per quello che vale. Dunque, il tempo stringe, io le vorrei chiedere telegraficamente due cose, una da parte mia, una da parte di un ascoltatore, una provocazione che ci manda un ascoltatore che io le giro, che dice, parla, accettiamola volentieri. Dice che tutto questo è frutto del proibizionismo, secondo lui, la politica crea e amplifica i problemi cercando poi rimedi che non possono che fallire, e si chiede chi ci guadagna. Io però le aggiungo un'altra provocazione. Insomma, certo, solo qualche mese fa, parlando di Messico, si discuteva, mi ricordo, McCain, lo stesso, sì, Bush, il suo, certo, scetticismo, addirittura di costruire un muro, no? Visto da oggi, quel muro non le sembra veramente il residuo di un passato del tutto inattuale, insomma inaccettabile. Cosa dice? Uno che, secondo me, i muri non hanno mai funzionato, e quindi i veri muri si costruiscono con politiche di supporto veri e di controllo di dove vanno i soldi. Cioè, se vuoi aiutare qualcuno, verifica anche che questo qualcuno con i soldi che stai dando lavori bene. Certo. Quindi è con la vera cooperazione, non soltanto dare soldi, ma la cooperazione costruttiva, che si ottengono risultati, secondo me, e non costruendo i muri. Perché se uno è più paziente del muratore, arriva in fondo al muro ed entra dall'altra parte. Ecco, lo dico in maniera simpatica. E per quanto attiene al discorso del proibizionismo, io credo che ci siano alcuni paletti che non si possono superare, nel senso, le grandi società, noi tutti ci mettiamo la cintura per, certo, e siamo, certo, tutti guidatori attenti e prudenti, perché ci sono alcuni, una minima parte di persone che senza quella cintura, guidando in maniera spericolata, si potrebbero fare male, e quindi è una riduzione della nostra libertà a favore di una minoranza. E credo che la droga, perlomeno a questi livelli, non parliamo di droghe leggere o droghe pesanti, qua parliamo di tonnellate e tonnellate e, certo, tonnellate di cocaina, cioè, certo, un'industria che fa vivere e ha fatto vivere dei paesi, certo, quindi credo non sia un problema di proibizionismo, ma sia un problema di costruzione in alcuni paesi di leadership efficaci, ma soprattutto dare ai contadini che coltivano la droga alternative credibili, certo. E vorrei anche, comunque, se ho ancora 5 secondi, 5, vai, dire che il vero problema comunque non è il povero contadino colombiano che fa la cocaina, il vero problema è chi si la tira e chi se la pippa, se no qua noi ce la prendiamo con l'afgano, col povero afgano, il povero colombiano produce qualcosa, certo, che qualcuno, certo, si inietta, si fuma, si beve, ma dal produttore al consumatore, credo che perfettamente il problema sia un problema di consumo più che un problema di produzione. La ringrazio infinitamente la sua partecipazione alla trasmissione di oggi. Vi ricordo, Hillary Clinton è in Messico a contatto con le massime autorità per provare a attuare una collaborazione più fattiva e più efficace di quella che finora sta avvenendo tra governo americano e governo messicano. Seguirà la visita di Obama e seguirà sulle tracce anche il piccolo Jefferson, a cercare di capire che cosa succede. E completiamo il nostro quotidiano giro del mondo, insomma, i nostri ascoltatori insieme a noi viaggiano soprattutto con il pensiero, ma soprattutto con l'informazione. Torniamo dove eravamo ieri, anche ieri eravamo a Shanghai, ci torniamo anche oggi perché ci aspetta Saro Capozzoli, il nostro abituale interlocutore da Shanghai, perché abbiamo una serie di discorsi interessanti che ieri abbiamo lasciato in sospeso, secondo me li lasciamo in sospeso anche oggi perché sono piuttosto corposi, ma se non altro li portiamo avanti. Ciao Saro. Ciao a tutti. Insomma, io per carità tutto sono meno che, come ben saprete, meno che un esperto di economia, però poi voglio dire da utente, quando leggo le agenzie, i giornali americani, o sento il presidente americano Obama che dice ma no, io in realtà non sono d'accordo, e questo non essere d'accordo riguarda la proposta da parte della Cina di dar vita così, d'amblè, come si dice, a una nuova moneta globale, insomma mi sembra un po' di fantascienza quello che mi si viene a raccontare, ma come, perché, cosa c'è sotto, che significa nuova moneta globale e perché la Cina si è fatta venire in testa questa trovata, e che secondo te, che parli dalla fonte dell'idea, che possibilità può avere una proposta di questo genere, cosa c'è sotto, insomma, Saro? Ma la ricetta cinese è quella di evitare di far dipendere le crisi il collasso di un singolo paese, in questo caso quello che sta succedendo adesso negli Stati Uniti. Il sogno dei cinesi è quello di spendere e pagare le materie prime, il petrolio, con una moneta che non sia il dollaro. Infatti stanno facendo di tutto per arrivare a quel punto, ecco. E l'idea della moneta globale è quella che entra in questa logica, cioè una logica che non fa dipendere i rapporti internazionali con un paese singolo, diciamo, il proprio approvvigionamento di materie prime, cioè sta nella loro logica. Tenete conto che fino a pochi anni fa, fino al 94, la Cina aveva addirittura creato una moneta interna alla Cina stessa per gli stranieri, ed era l'FEC, il Foreign Exchange Currency, quindi loro già sono esperti di queste monete strane. Già hanno, no? Percorso queste strade. Ecco, ma a te che sei, insomma, sì, un operatore, un imprenditore, ma sei a contatto sia con imprenditori cinesi ma anche internazionali, sentir fare questi discorsi, pragmaticamente che effetto ti fa? Sembra teoria, sembrano discorsi a caffè, che effetto ti fanno? No, mi sembra che è logico per quello che riguarda, diciamo, il modo di pensare cinese. Adesso la Cina sente che ormai il baricentro del mondo si è spostato verso il Pacifico, cioè non c'è una linea netta sul Pacifico, non c'è più. Quindi le mappe che si comprano in Cina, non c'è l'Europa nel centro, ma c'è la Cina. E questa è una vecchia storia, Ecco, quindi... E quindi sì, eurocentrismo, certo. Stanno già programmando, io sentivo parlare alcuni mesi fa, ma anche un paio di anni fa, si parlava di moneta unica cinese che potesse essere usata in Singapore, in Thailandia, in tutta questa zona qui, un po' da contrapporre all'euro e al dollaro. Queste sono cose che addirittura hanno cominciato ad emettere della moneta senza l'immagine di Mao Zedong, per renderla più internazionale. Cioè più una grande moneta regionale, no? Diciamo. Sì, sì. Quindi questa è la loro logica, e secondo me, pensandoci, il fatto di far dipendere le sorti del mondo dalla fortuna o sfortuna di un solo paese, e, diciamo, fa pensare alla sua logica questa idea cinese. Saro, hai rifatto l'esperimento che già ieri abbiamo tentato senza successo? Insomma, hai provato a connetterti con YouTube, che abbiamo scoperto essere oscurato? Ho provato, non ci sono riuscito ancora. Quindi continua. Di solito quando capitano episodi di questo genere, per quanto si protraggono? No, posso andare avanti per dei mesi. Ah. Per dire, Wikipedia è scomparsa dal web qui per circa 6 o 7 mesi, poi è ricomparso quando poi sono state fatte un po' di pulizie, diciamo, nel sito, no? Si parlava di un certo di certi affari interni, ecco, di cui non posso dire, cioè non si può dire troppo adesso, perché, ecco, però diciamo il discorso del bloccare dei siti è un qualcosa di normale qui, come sono monitorati, ecco. Diciamo comunque che da una parte la Cina si trastulla con queste cose, che secondo me fanno perdere un po', diciamo, la loro immagine di paese dinamico, Però diciamo che sta entrando, dopo aver fatto la maturità, no, con le Olimpiadi, si parlava di questo, sta facendo i primi esami all'università, no? Quindi il fatto di affacciarsi adesso al G20. Ecco, bravo. Ultima domanda era proprio questa. Qui in Europa, in Italia, in genere, insomma, nell'informazione internazionale continentale europea, si scalda sempre più, si arroventa l'attesa per il G20, anche l'arrivo di Obama a Londra, il punto di contatto e di confronto sulla crisi economica. Quanto se ne parla in Cina del G20? Qui si parla molto degli Stati Uniti, si parla ovviamente di questo grande evento di del G2, insomma. Si parla molto del rapporto con gli Stati Uniti. Qui si è molto coscienti che se per caso dovesse fallire un'economia, un paese, possa essere in Occidente, da qualche altra parte del mondo, a questo punto gli Stati Uniti non potranno più essere d'aiuto come è stato nel passato. Fondo monetario, non c'è più soldi e così via. La Cina si è resa conto della propria potenza economica, ha messo da parte, da buona, diciamo, formichina da parte, miliardi e miliardi di dollari, e adesso conta. E quindi diciamo è un rapporto privilegiato che è di interesse comune, perché la Cina ha tanto credito, cioè nel senso ha tanti bond americani, tanti soldi investiti laggiù, certo. E quindi è un rapporto proprio bilaterale. Ecco, il G20 diciamo è una questione di cortesia all'Europa, una questione di cortesia a tanti altri paesi, però diciamo ciò che conta adesso in questo momento è il rapporto fra loro due. bene. Grazie a Saro Capozzi, ci ha aggiornato sia su questi grandi temi, poi ci ha aggiornato anche su altri temi, diciamo, meno grandi, più piccoli, ma molto più locali, intesi come trasmissione radiofonica di Radio 24 che si chiama Jefferson. Ce n'è uno che porta il nome di Paolo, un tema glorioso riguardo al quale abbiamo delle informazioni talmente grosse che attualmente a livello redazionale, come dice, siamo incapaci di gestirle, insomma. Ci stiamo pensando, poi vi faremo sapere. Yeah. 戴上坏人的面具，老师恶言。 Abbiamo fatto grossi passi avanti, i nostri servizi qui segreti di Jeff sono fatti grossi passi avanti, però dobbiamo capire come gestire questi documenti di cui siamo in possesso. Jefferson, sono Stefano Pistolini, redazione Milano Enrico, regia Roma Valerio Rocchetti, a Milano Fabio Cantadori, la mail è jefferson2@radio24.it, le due pagine Facebook sono redazione Jefferson2 per parlare con noi, o Jefferson2 Radio24, Express Yourself per partecipare ai nostri dibattiti, iscrivetevi numerosi, potete ascoltare la replica a mezzanotte, la trovate in podcast sul sito della radio, ci trovate invece in diretta come sempre abitualmente dopo le 4 qui su Radio 24 e ci risentiamo. Yes, she, 巴拉，手来手去都只是游戏。